siamo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato! Allora, bentornati in studio. I laboratori di Dedicato a scuola proseguono e proseguono con i ragazzi un po' più grandi. Abbiamo ascoltato in 3 puntate i bambini della scuola Federzoni dell'IC5 di Bologna. Adesso ci dedichiamo ai loro compagni più grandi, quindi sempre dall'IC5 di Bologna. Abbiamo però la scuola Testoni Fioravanti. Con loro il nostro laboratorio è stato approfondito e abbiamo scavato un pochettino di più in quello che è proprio l'organizzazione di una trasmissione radiofonica, la creazione dei contenuti. Abbiamo lavorato anche sullo speaker e quindi sulla tecnica vocale, sulle emissioni del suono all'interno di un microfono, su quello che è la respirazione e la modalità di parlare in radio per essere un po' accattivanti e creare anche appunto un interesse particolare negli ascoltatori. Quindi i ragazzi hanno preparato degli sketch, hanno preparato delle interviste, dei commenti, sono stati veramente molto bravi e molto attenti e quindi noi diamo visibilità al loro progetto e al loro percorso, perché veramente era parte di un laboratorio che è il Laboratorio Bussole, promosso dall'associazione Totem Lab, che è lo stesso progetto che è andato alle Federzoni e quindi ha un discorso anche di progetto ponte tra la scuola primaria e la scuola secondaria, che è molto importante e che i ragazzi hanno accolto a braccia aperte, perché ascoltare i più piccoli e passare del tempo a scuola lavorando in radio è una cosa meravigliosa. Quindi noi ovviamente con i nostri mezzi e con le nostre possibilità, perché non abbiamo potuto creare uno studio radiofonico all'interno della scuola, però tutto quello che abbiamo potuto fare loro l'hanno accolto veramente sapendo la valenza di questo progetto e comunque l'importanza della radio nel 2025, perché se 30 anni fa la radio aveva un significato, adesso ne ha uno che secondo noi è ancora più profondo, e quindi bisogna andare a cercare all'interno del pensiero dei ragazzi anche questo significato dal loro punto di vista, perché i ragazzi di 12, 13, 14 anni sono abituati all'ascolto della musica in altra modalità. E quindi noi abbiamo lanciato un semino ai ragazzi delle Testoni Fioravanti e loro l'hanno fatto crescere, questo semino, veramente in maniera esponenziale. Quindi iniziamo ad ascoltarli e iniziamo a vedere che cosa è successo a scuola con loro. Ci raccontano una canzone che a loro piace particolarmente. Allora, noi abbiamo scelto Taciturnal e l'autore è Coez e Gemello. Direi che l'intro è angelica e il ritmo è piacevole. Questa canzone parla soprattutto dell'amore, un testo che cerca il modo di far capire i sentimenti provati e le cose fatte in assenza di una comunicazione esplicita con l'amore. Grazie, questa è un'analisi molto interessante. Perché ti piace questo brano? Perché un pochino mi rappresenta. Ti rappresenta? Beh, un po'. Ok. Diciamo. A me non tanto, però cioè, direi che è molto bello da ascoltare, mi è piaciuto, sì. Grazie ragazze, ciao! Abbiamo scelto delle canzoni oggi, ci siamo divisi in gruppi, quindi con vari ragazzi e diversi brani musicali. E il tuo gruppo, che canzone ha scelto? Gata Only. Ok, ma avevamo detto che Gata Only ha dei contenuti un po' espliciti per un laboratorio che si fa a scuola. Tu dicevi parla di amore, ma in realtà, insomma, è un amore un po' personale, diciamo, per mandarlo in radio. Quindi, che canzone hai scelto? Gata Only. Ok, Gata Only, quindi perfetto. Ma è sempre quella canzone che abbiamo detto che non mandiamo in radio perché... E che quindi scegliamo una canzone. Gata Only. Ok, grazie del tuo contributo, ciao. Allora, abbiamo una proposta della professoressa della seconda B, professoressa di musica, che brano è? Lazy Song, okay. Di Bruno Mars. Non so se avete presente quella che dice che al mattino quel mattino si è svegliato e non ha voglia di fare proprio niente e vuole stare soltanto a letto. A me certe volte questa canzone mi rappresenta davvero tanto. Non credo che rappresenti tutti noi in questo momento. Ragazzi, la conoscete questa canzone? Sì, no. Ok, però Bruno Mars è dei vostri, cioè non è da boomer, voglio dire. Bruno Mars ancora è in voga, no? Sì, quindi... Lo conosciamo Bruno Mars? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, ok, è sempre quello di è sempre lui? È sempre lui. No! Sì, sì, è sempre lui. Ok, ciao. Ciao. Allora, ecco il terzo gruppo della seconda B che ci racconta un brano musicale. E io so qual è, so che ci hanno messo passione a cercare questo brano. Che brano è? Parliamo di Forever Young. Forever Young, degli Alphaville. Ok. Allora, chi parla per primo? Forever Young è una canzone degli anni Ottanta, tornata recentemente in voga tra la generazione Z. Vuole ricordare momenti di giovinezza passati, esprimendo il desiderio di rimanere per sempre giovane. Oppure di quanto tutti siano diversi, alcuni sono l'acqua, altri fuoco. Tutte le avventure successo di tutte quelle canzoni che ci siamo scordati di mettere. Mi piace molto questa canzone, l'ascolto spesso. Amo il ritmo e è un bellissimo significato nonostante vecchia. Allora, vecchia in che senso, scusa, dei miei anni? Stai dicendo che sono vecchia? No. Ah, ecco, mi raccomando, ragazzi. Couldn't wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Raising our leaders, we're getting in tune. The music's playing by the Forever Young degli Alphaville. Grazie ragazzi per averci fatto ascoltare nuovamente questo brano, perché noi ovviamente dello staff di Dedicato adoriamo quel periodo storico, ma questo ormai lo sappiamo tutti, quindi insomma anche i nostri cuccioli, i fanciulli più piccoli sono proiettati in quegli anni, quindi niente, che vi dobbiamo dire. Per esempio che abbiamo appena ascoltato la seconda B delle Testoni Fioravanti, che è una scuola secondaria inferiore, con dei piccoli commenti, hanno scelto delle canzoni che hanno un po' analizzato, hanno guardato, studiato un po' la storia di questi brani, detto un loro parere. Adesso invece passiamo alla seconda C delle Testoni Fioravanti, che hanno fatto un lavoro simile, però in realtà più su vari argomenti, mentre in seconda B abbiamo lavorato su dei brani musicali e quindi su tutto ciò che è la musica che può interessare ai ragazzi, in seconda C hanno guardato anche i mestieri, hanno guardato alcune serie TV, abbiamo parlato di varie cose, quindi andiamo ad ascoltare anche loro. Prima domanda, semplice ma molto chiara, cosa vorresti fare da grande? Io l'attrice. Ok, e tu invece? L'hostess. Che studi dovete fare per questo lavoro, per fare questo lavoro da grandi? Il linguistico, perché servono le lingue, sono molto importanti le lingue. Perché tu vuoi lavorare anche all'estero come attrice. Esatto, sì. E tu invece anche direi come hostess, che cosa vorresti fare di studio per arrivare a fare questo mestiere? Sempre il linguistico. Ok, quindi alla fine vi troverete insieme alle scuole superiori? Sì. La prossima domanda è: perché vorresti fare questo lavoro? Che cosa trovi di accattivante nel fare l'attrice? Perché mi piace e mi ispira molto. Quindi ti senti pronta a salire su un palcoscenico? Sì. Tu invece perché vuoi fare la hostess? Perché mi ispira a vedere la gente nell'aereo, cioè così. Come pensate di raggiungere questo vostro obiettivo? Di studiare. Lavorando. Ok, quindi sia studiando la materia, sia in pratica facendo tirocinio e insomma lavorando già nel settore. Ok ragazze, grazie. Ciao ragazze, buongiorno, stiamo preparando il nostro podcast. Che cosa state facendo voi? Di cosa parlate? Di Sanremo. Ok, ma vi piace Sanremo? Molto. E quindi anche in seconda media si ascolta ancora Sanremo, non solo i piccoli. Esatto. Quest'anno era meglio o peggio dell'anno scorso? Io direi peggio per la conduzione. Con Amadeus era meglio. Ok, ci sentiamo dopo, grazie. Allora, siamo ancora alle Testoni Fioravanti con un gruppo di fanciulli, in questo caso tutti maschietti, che ci vogliono raccontare una cosa ludica, ma secondo me molto interessante a 12 anni. Alla vostra età queste sono le cose che interessano di più. Di cosa ci parlate? Parliamo di una serie chiamata Squid Game, che sarebbe per i ragazzi di nostra età, dai 13 anni in su, che è una serie che è molto violenta, però essendo che per i ragazzi della nostra età piacciono molto queste cose, secondo me è un tema anche molto importante. Cosa ci raccontate di questa serie? In pratica questa serie consiste in dei giochi, che sono in tutto 6 giochi, che sono giochi mortali, dove la gente rischia la propria vita per vincere un premio che va dai 45,6 miliardi di yen in su. Ok, questa è una cosa reale o è una cosa inventata? È una cosa inventata, però dicono alcuni che è anche una cosa reale, che c'è già stata, però tipo non dei soldi vincevano, ma erano obbligati tipo a fare questi giochi qua. Ok, e a voi però questa cosa piacerebbe farla, no? No. Ok. Allora, questa serie TV, oltre che molto violenta, lancia messaggi forse ai più piccoli, no, non tanto interessanti, come dire, no? Perché un bambino che vede una cosa di questo tipo potrebbe avere la voglia di provare a fare questi giochi, mentre voi siete più grandi e sapete che non si fanno. Ecco, che è un'invenzione questa serie su cui si va a romanzare e a creare delle sceneggiature. E sono attori queste persone. Se invece lo vede un bambino più piccolo, è una serie TV anche molto pericolosa, insomma, no? Quello che vogliamo dire oggi è un po' anche ai più piccolini: attenzione a quello che vedete, perché non è reale, è un'invenzione, e nella realtà fare queste cose è molto pericoloso. E soprattutto parlo ai genitori: non fate vedere queste cose ai bambini più piccolini, perché è responsabilità dei genitori e non dei figli quello che vedono in TV. Allora, parliamo invece di un vostro punto di vista. Cosa ti piace di Squid Game? È praticamente interessante, perché è un gioco, è praticamente un gioco di sopravvivenza e quindi devi sopravvivere ai giochi e alle altre cose. Per te invece che cos'è interessante? Per me è una serie molto interessante perché quando l'ho conosciuta ero stupito perché vedevo gente che per i soldi faceva di tutto, cioè rischiava la propria vita. Come ha detto il mio compagno, i giochi di sopravvivenza sono molto belli. Però certo, rischiare la vita per dei soldi non è il massimo, però... Ok, ed è qui che volevamo arrivare, grazie. Rischiare la vita per dei soldi mi sembra poco interessante, come dire. Tu invece che cosa ti piace di questa serie? A me in generale Squid Game mi piace tantissimo perché i generi violenti a me piace. Poi mi piace anche per un'attrice che si chiama Sai Biok, che è Player 067. Quindi sì, c'è questa cosa romanzata che a te interessa, ti piace un'attrice in particolare e ti piace questo genere, diciamo, no? A chi piace l'horror, a chi piace il fantasy, e a te invece questa cosa un po' violenta, cruenta ti piace, però abbiamo lanciato il messaggio giusto, dai ragazzi, grazie, nel senso che comunque abbiamo fatto capire che non è quello che dobbiamo fare nella vita. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I said maybe. Gli Oasis con Wonderwall. Questi brani musicali che stiamo ascoltando ovviamente li hanno scelti i ragazzi delle Testoni Fioravanti, quindi sono i loro contributi e li abbiamo sviscerati piano piano, perché per trovare della musica che piacesse un po' a tutti e che fossero proposte condivise c'è stata una riflessione grande su questa cosa. Allora, perché i laboratori di dedicato alle Testoni Fioravanti? Perché? Perché l'associazione Totem Lab, che è una PS costituita nel 2020, ha fortemente voluto questo progetto, che è il progetto Bussole, che si fa all'interno dell'IC5, quindi Istituto Comprensivo 5 di Bologna, che è nel quartiere Navile, zona bolognina, quindi insomma proprio pieno di cultura e di diversità nella quotidianità, quindi un istituto comprensivo veramente ben assortito, e anche dal punto di vista di dirigenza e docenti sono veramente, devo dire, bravissimi, perché in prima persona ho toccato con mano la loro professionalità e adesso non voglio fare sviolinate, però se lo meritano e si meritavano di sentirlo dire in radio. Quindi torniamo a Totem Lab, che è la nostra associazione che propone appunto all'Istituto Comprensivo 5 questi progetti. Quest'anno il progetto è Bussole e l'associazione Totem Lab nasce dall'incontro di professionisti di differenti settori, quindi sono tutte persone che lavorano da diversi punti di vista, si va dal punto di vista culturale, ma anche c'è un obiettivo condiviso che è creare spazi rigenerativi per le comunità negli ambiti dell'educazione e della cultura di pace. Quindi ringraziamo l'associazione Totem Lab intanto per il progetto Bussole, ringraziamo l'Istituto Comprensivo 5 e ovviamente i bambini e i ragazzi che hanno partecipato ai nostri laboratori e che ci hanno reso in queste settimane un pochino più sorridenti. Quindi voi avete scelto di parlare giusto giusto del Festival dei Fiori, che quest'anno è stato un po' diverso dagli altri anni. Allora, dici qualche cosa. Secondo me quest'anno è stato molto noioso per la conduzione. Se ci fosse stato Amadeus sarebbe stata tutta un'altra cosa. Ok. Sì, esatto, Carlo Conti faceva di tutto per andare a dormire prima delle 10 di sera, andava velocissimo. In effetti è stata una conduzione un po' lenta a livello di tempistiche teatrali, è stata molto veloce per arrivare alla fine, ma non aveva i tempi teatrali che aveva Amadeus, hai ragione, avete ragione. Dimmi qualcosa su Sanremo. Che secondo me Carlo Conti però provava a farsi piacere, quindi è stato carino. Ok, a te è piaciuto. No, ma infatti Carlo Conti è un ottimo professionista, però ha avuto una conduzione molto diversa da quella di Amadeus, che invece era molto più vivace, diciamo, come eravamo abituati. Esatto. Secondo me Amadeus è più appropriato per Sanremo perché è più vicino ai giovani. Secondo me Giorgio doveva arrivare almeno terzo. Almeno sul podio ci doveva arrivare. E siete d'accordo sulla classifica? E su come... No. Ok. Cioè, tra Tony F il 25esimo posto se lo meritava. Chi avreste fatto vincere? Allora. Ovviamente Giorgia. Giorgia, anche perché era prima tutte le serate, alla sesta serata è calata, è diventata sesta, okay. Quindi secondo me non ci sta. Ma questo Olli non vi piace, non ci dice niente? No, perché secondo me non si merita di andare all'Eurovision perché fa canzoni più adatte a ragazzine. Okay. Cioè a un adolescente. Ha una bella voce, però non per si meriterebbe. Per l'Eurovision no. Ok, e Lucio Corsi invece? Beh, una bella canzone, sì. Sì, anche secondo me sì, è una bella anche canzone. Sì, è un buon autore, è bravo. Avremmo fatto vincere lui piuttosto che Olli, vero? Sì. Assolutamente. Sì. Grazie ragazze, grazie del vostro contributo. Bevi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Di cosa mi parlate voi? Vi volevamo parlare di Ice Cube, una canzone, e di It Was a Good Day, fatta da Ice Cube. È anche una delle sue tracce più iconiche, caratterizzata da un beat che rilassa tanto e un tono ottimo. Il brano racconta una giornata ideale, senza conflitti o problemi, in contrasto con la realtà difficile della vita urbana. I testi celebrano i piccoli piaceri quotidiani e la serenità, offrendo anche un inno della speranza e della pace, con una produzione elegante e un compiacimento della Isley Brother. E la canzone riesce anche a trasmettere un messaggio positivo, riflessivo, considerando anche che Ice Cube è uno degli artisti più influenti in quegli anni. Ok, grazie ragazzi, avete fatto un'analisi bellissima, perché io so che l'avete fatta insieme questa analisi e avete scelto un brano interessante. Qualcuno ha qualcosa da dire sulla scelta di questo brano, perché l'avete scelto? Io per la storia del rapper che ha fatto appunto questa canzone, perché ci attraeva, soprattutto le canzoni che fa. Ok, quindi vi piace Ice Cube? Sì. Ok, a voi piace? Sì. Sì. Bene, grazie. Le fanciulle hanno paura del microfono, l'hanno guardato con sdegno. Avete qualche cos'altro da dire su questo brano? Nulla, ci sarebbe un ultimo. Sarebbe Masi Wee, un rapper cinese, membro degli Hype Brothers, noto per mescolare trap e influenze della cultura cinese. La sua musica esplora temi come la vita urbana, la crescita personale, la lotta sociale e il conflitto tra tradizione e modernità. Con beat moderni e testi profondi, riesce a unire elementi occidentali e orientali, creando un suono unico. Okay. E appunto per questo la troviamo davvero attraente. Interessante, ok. Mi dici di nuovo il nome del rapper e il titolo? Masi Wee. Il titolo della canzone è Coco Elva Tia. Grazie. Okay. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Dedicato con i ragazzi delle Testoni Fioravanti dell'IC5 di Bologna, che ringraziamo, la seconda C, la seconda B, i loro professori, perché stiamo veramente mettendo insieme delle puntate simpaticissime e molto interessanti con i loro contributi. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre su Radio Città Fujiko. Ciao! Hai dimenticato a Playboy? E anche per me, a chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole va sempre più giù.